Con Silvano Agosti, regista del film Ora e sempre riprendiamoci la vita, in tour nelle sale a partire dal 4 ottobre. Silvano, ben trovato. Comincio con una correzione. Intanto il regista è il tipico servo della cultura di potere che accetta di responsabilizzarsi su un film che non dirige lui, che non filma lui, che non monta lui, di cui non scrive i dialoghi e di cui non scrive praticamente niente. Lui praticamente sta lì a difendere gli interessi del padrone che è il produttore. Ok. Questa ripugnante abitudine viene vissuta come l'unica possibilità per fare un film. In realtà, nel mio semplice percorso di intera vita, io ho pensato: chi è che deve fare il film? L'autore, risposta. E così io ho filmato i miei film, li ho montati e li ho distribuiti nelle sale con il cinema industriale, che è tossico come il cibo industriale, capito? E soprattutto ho addirittura aperto una sala cinematografica 33 anni fa che si chiama Azzurro Scipiona, no? Dove proietto in una sala 360 capolavori e nell'altra sala i bei film d'autore, capito? Sì. Belli, pochi e ignorati. Detto questo, mi sono accorto che fra le grandi trovate del potere, rispetto al 68, c'era questa idea: chi faccio questo 68? Allora celebrerò il cinquantenario del 68 con grande enfasi, però continuerò a tenere nascosto tutto quello che è accaduto nei 9 anni dopo, 69, 70, 71 fino al 78. Pensa che nei 9 anni dopo è accaduto di tutto, cose meravigliose, cose che appunto io ho inserito nel mio film perché le avevo girate quasi tutte con la mia pellicola. E allora il mio film si chiama Ora e sempre Riprendiamoci la vita. La prima sarà giovedì 4 ottobre al Cinema Azzurro Scipioni. Ho fatto una prima così selvaggia alla facoltà di architettura, perché lì era cominciata la grande battaglia di Valle Giulia, ed è stata una cosa bellissima. Quindi chi vuole vedere questo film venga a vedere se stesso e ciò che gli manca, venga a capire quanto non sa nulla delle cose meravigliose che sono accadute in quegli 8 anni, 9 anni lì, straordinarie, cose straordinarie, con 6 movimenti, ognuno dei quali aveva un obiettivo, che sono stati tutti raggiunti quegli obiettivi lì. Dopo, per 40 anni, chi è andato al potere ha cancellato tutto, tutto, tutto, meno una cosa sola, e con questo concludo: non sono riusciti a ripristinare il principio di autorità. In quegli anni è morta per sempre l'autorità, capito? Sì. Ed è nato semmai il desiderio di credere nell'autorevolezza. Quindi invito ogni persona ad essere autorevole, perché ogni essere umano che nasce è il massimo capolavoro che la natura ha inventato in milioni di anni, naturalmente fino a 5 anni di età. Poi si pensa alla scuola a massacrarlo, a farlo diventare un cittadino, capito? Chiudo dicendoti come i napoletani chiamano i cittadini: upavagas. Silvano, una curiosità rispetto alla struttura narrativa. C'è un percorso lineare temporale dal 68 ai 9 anni successivi nel tuo film? C'è un percorso dei 9 anni che parte dal 68, considera ovviamente anche il piccolo grande valore che ha avuto il 68, ma il grandissimo valore viene dopo. E quindi sì, c'è, calcola che io ho dovuto chiudere 10 anni in un'ora e mezzo. Quindi non è che potevo arrivare alle sfumature, però ho detto tutti i passi più importanti, ci sono tutte le cose più importanti, più eterne. Ho cercato di dare una rappresentazione storica e non cronachistica. Sì. E ci puoi dare dei riferimenti internet per saperne di più, visto che sarà in tour, per sapere in quali sale si può trovare, se hai delle indicazioni internet. Guarda, è per fortuna il film che voleva produrlo l'Italnoleggio, ma io gli ho detto no, grazie, io non voglio produttori, io faccio il film, poi te lo faccio vedere, se ti piace lo compri e se non ti piace lo rifiuti. E così ho fatto, così io mi sono sentito libero di fare assolutamente quello che desideravo. E Benissimo. credo di esserci riuscito, dalle proiezioni che ho fatto fin qui, dalle proiezioni che ho fatto a Locarno, dove mi hanno invitato, penso senza che io lo chiedessi. Chissà perché sia accaduto. Comunque, mi hanno invitato e hanno fatto tre eventi col film e in 2 giorni l'hanno visto 1.000 persone. È un film inimmaginabile. E allora ricordiamo ora e sempre, riprendiamoci la vita di Silvano Agosti in tour nelle sale a partire dal 4 ottobre. La prima sarà proprio all'Azzurro Scipioni a Roma il 4 ottobre. Silvano, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Però c'è una cosa assolutamente importante da dire. Io ho dedicato il film di Silvano Agosti e di tutti quelli che in quegli anni hanno lottato e sono morti per una società migliore e un mondo diverso. Per questo io ho dedicato il film a costoro, ma anche a Mauro Rostagna, che è stato sparato con 3 colpi di pistola semplicemente perché era una persona meravigliosa. Bene Silvano, un abbraccio e a prestissimo. Ciao.